Rientro a casa mia e chiamo l'ascensore. Nel frattempo arriva una signora che non ho mai visto prima e non senza squadrarmi ben bene, attende con me. Arriva l'ascensore. Entriamo e io dico: io vado al quarto e lei? Lei non dice soltanto vado al quinto, no. Dice vado al quinto, sa, per fare un'iniezione. La cosa interessante, non l'iniezione, interessante è il fatto che questa signora abbia sentito il dovere di giustificarsi. Evidentemente dalla sua analisi era emerso chiaro che io mi stavo comportando come se per l'appunto mi trovassi a casa mia e implicitamente mi ha riconosciuto una sorta di diritto territoriale da far valere nei confronti della sua estraneità. Lei non apparteneva alla casa, ma ci veniva per svolgervi occasionalmente un'attività che comunque rientrava negli interessi di almeno un inquilino, colui che l'iniezione se la beccava. A pensarci, la giustificazione pubblica di sé è un'attività socialmente diffusa. Si può dire che non se ne possa fare a meno, a condizione, ben inteso, di voler continuare a spartire con gli altri membri della società con cui conviviamo quell'aurea di normalità che ci legittima l'uno agli occhi dell'altro. Mettiamo che si stia aspettando qualcuno sotto casa sua e mettiamo che dal portone ne esca un altro. Lo si guarda e si viene guardati ed ecco scattare la necessità di una giustificazione di sé. Può bastare uno sguardo che va oltre la persona a cercare le sue spalle, oppure un leggero, che so, uno sbuffo di impazienza, oppure ancora tutta un'esibizione con una controllatina all'orologio, come a dire sto aspettando qualcuno, oppure solo soletto, stai aspettando il tram. A un dato momento ti accorgi che qualcuno dall'altra parte della strada ti guarda. Ecco che allora dai una conferma di quel che tu stai facendo. Come allunghi il collo nella direzione in cui il tram dovrebbe arrivare, cambi piede d'appoggio, reciti l'attesa. Chiarisci che non sei lì per lui, che lui ha tutta la porzione di disattenzione cui ha diritto. Un caso simpatico è quello occorsomi in seguito alla richiesta di aiuto di una ragazza molto carina che di notte ha problemi con l'automobile. Mi chiama e mi dice: senti, potresti darci un'occhiata tu? Non riesco a mettere in moto. Io non dico che con le automobili non ci capisco nulla. Saliamo entrambi, io al volante e lei nel posto a fianco, e provo comunque a capirci qualcosa. Dopo un mezzo minuto di inutili tentativi arriva un'auto e ne discendono due tizi che con una certa rapidità si danno da fare intorno al loro bagagliaio. Noi siamo lì in una macchina spenta, a 2 metri da loro, potenziali scomodi testimoni e privi almeno apparentemente di una giustificazione evidente di sé. Chiusi nell'abitacolo di un'auto che non sta svolgendo la sua funzione di auto, che si può fare? Per fortuna che io ho studiato metodologia del linguaggio, l'ho studiata tutta la vita, così per cavarci d'impaccio le ho detto: svelta, baciamoci. Lei ha capito e così sono ancora qui a raccontarlo, se no chissà. Mezz'ora dopo abbiamo riaperto gli occhi e di quei due non c'era più traccia. Eravamo salvi e spero di godere in eterno della sua riconoscenza. Di far ripartire l'automobile ovviamente nemmeno a parlarne. Non è solo questione di giustificazione di sé, ma è questione anche di attenzione. Goffman, in un suo vecchio libro del 67, Il rituale dell'interazione, dice che c'è un momento in cui il distribuire in un certo modo l'attenzione diviene socialmente corretto, mentre altre distribuzioni divengono scorrette. E ciò perché la scelta dei centri focali di attenzione, degli impegni collaterali e dell'intensità dell'impegno sono definiti da limiti di natura sociale. È vero, direi che parlerei di vere e proprie regole implicite, roba che risale a quei comportamenti animali che nell'occhio dell'altro trovano una buona ragione per risolversi in aggressivi o remissivi. La giustificazione di sé è una risposta all'attenzione altrui fino a che questa rientra in queste regole implicite. Se l'attenzione va oltre, ovvero si focalizza oltre il tempo della pura percezione e con l'intensità riservata ad un oggetto di percezione legittimamente selezionato, i casi sono due. Per lo più è uno, siete nei guai. Ma i casi sono due. Se siete più forte di quanto lui non si aspetti, nei guai è lui. A me quest'ultimo caso non capita mai. A me quest'ultimo caso non capita mai e sono costretto ad aguzzare l'ingegno e fare buon viso a cattivo gioco. A costo anche di baciare una ragazza molto, molto carina.